devo stringere in queste notti senza amore, che come me hanno l'insonnia del dolore. In questa inerte immensità l'assenza tua mi crescerà, come il sorriso che mai più ritornerà. Quello che vive e muore intorno a me è destino, e tutto questo dopo te è come prima. Anche il mio cuore somiglia a te, vuole un ruolo senza me e cerca un posto per scordare insieme a te. Libero come un fiume in piena che travolge tutto dedicato a te. Libero e verranno in tante, ma farò di tutto per restare me. Libero, io non ho finale, niente da sognare perché ho avuto te. Libero, senza più catene che dovrò spezzare, io rinuncio a te. Stanco già di dare amore, incatenato a questa eternità da solo. Il suo finale è scritto già come la notte che verrà. Per chi l'ha scritto non esiste la pietà. Il mio respiro suona come sinfonia, violini e arpe che tormentano le note. E un mio amico scriverà pensando a chi lo amerà, con le parole che da me afferrerà. Libero fino a che il sole ci sarà nel cielo, mi riscalderà. Libero posso rinunciare a tutt'altro amore, finalmente un me. Libero come un fiume in piena che travolge tutto dedicato a te. Ogni finale ha un tempo e sa non ci sarà un se, un ma, e prima o poi anche la luce se.